Italia in controluce. 13:34 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, questa è l'Italia in controluce. Roma. La notte tra sabato e domenica, un branco di ragazzi aggredisce un giovane musicista, Alberto Bonanni, 29 anni, lo prende a calci lasciandolo esanime per strada. Inutile la corsa in ospedale. Troppo gravi le conseguenze dei colpi, Alberto ha le mandibole fratturate, il setto nasale rotto, una forte contusione alla tempia, un edema cerebrale ed escoriazioni sul volto causate dai calci e dalle scarpe degli aggressori. La polizia ferma due persone, due ragazzi di 21 anni, uno, Cristian Perozzi, fa parte di un gruppo di estrema destra, la brigata Rione Monti, fotografato più volte con il saluto romano, ma non sarebbero gli unici responsabili di una aggressione e di una violenza estrema che ha scioccato Roma. E non accennano nemmeno a fermarsi le polemiche sulla sicurezza nella capitale, siamo andati allora nel quartiere Monti dove tutto è accaduto. Jacopo Matano. Io posso dire che un mio amico... adesso sta male all'ospedale San Giovanni. Posso chiederti se tu c'eri con lui quella sera oppure no? Io c'ero, comunque ripeto, non possiamo lasciare nessun tipo di dichiarazioni riguardo l'accaduto. Sono ancora sotto shock i compagni di Alberto, così come sotto shock è Rione Monti. Il più amato da Monicelli e napoletano, l'anima raffinata insieme popolare del cuore di Roma si è trasformato improvvisamente nello scenario di un incubo metropolitano. Sabato scorso il pestaggio di Alberto Bonanni, musicista 29enne picchiato brutalmente dal branco all'uscita da un locale ora in condizioni gravissime. Il giovane dipendente della Zecca dello Stato con la passione per la chitarra frequenta la scuola di musica St. Louis in una delle vie più note del quartiere. La sua storia si intreccia con quella di due dei suoi presunti aggressori, i 21enni Cristian Perozzi e Carmine D'Alia, due giovanissimi duri che nelle foto su Facebook si atteggiano a bulli tra saluti romani e simboli ultras, come quello della brigata Rione Monti. Assieme a dei complici è una delle piste seguite dagli inquirenti, i due potrebbero essersi avventati su Alberto a causa di un diverbio che il ragazzo avrebbe avuto con uno storico abitante del quartiere, forse per difendere l'onore del Rione, la ricostruzione del titolare del locale in cui Alberto si è esibito prima dell'aggressione. Dei ragazzi usciti dal bar, stati diciamo aggrediti verbalmente da un inquilino che abita penso al terzo piano. Il pittore, giusto? Così si dice, quindi non hanno dato peso loro a quello che ha detto sta persona. Andando via, lui scendendo la rincorsi ha inveito sia verbalmente, così. Sono spuntati dal nulla quattro persone, cinque, chi dice tre, due non lo so, e hanno aggredito questo ragazzo. Due di queste persone sono state già fermate e frequentano la piazzetta qui vicino. Tu li hai visti, li conosci? Guarda, io personalmente proprio non li conosco, quindi non è che li posso classificare, sono un tipo di ragazzi. So che sono persone normali, ragazzi come tutti quanti, che magari in un momento euforico si sono scagliati tutti quanti contro sta persona. Magari perché si hanno pensato, non lo so, che un loro amico era in difficoltà. Rione Monti non è che è un quartiere pericoloso, assolutamente. Possono essere pericolosi anche tanti altri quartieri dove c'è la movida. Il titolare del bar non è l'unico a sostenere che il problema non sta nel Rione, ma nella violenza gratuita. Chi a Monti lavora, dalle boutique di Via del Boschetto agli alimentari popolari di Via Urbana, crede che un episodio come questo poteva accadere qui come altrove. Che posso dire, succedono da tutte le parti. Quindi non è un problema di questo quartiere, secondo lei? Secondo me no, la zona è bella, storica. Cioè il discorso è questo, che comunque non è che stia diventando troppo violento, troppo... È che comunque in tutte le città europee, in tutte le città, se uno può stare tranquillo deve andare in campagna, ma si sa che le grandi città sono così. Magari chi ci abita, dicono che quasi tutte le sere, dopo mezzanotte, l'una, ci sono queste persone che magari bevono e poi rompono i vetri, le bottiglie. Io ci lavoro e basta. Ma proprio chi a Monti abita, magari da generazioni, non vuole più parlare di questo episodio. Troppa attenzione da parte dei media, troppo rumore, la reazione è di chiusura totale. Basta, è di fatto. Basta, ciao. Stop. D'altronde uno dei due presunti aggressori, Cristian, è nato proprio qui. I giornali hanno scritto che suo padre gestisce due bar del Rione e che il ragazzo, che ha qualche precedente per spaccio, trascorreva le serate tra alcol e pallone con la comitiva a Piazza Madonna dei Monti. Questione di convivenza, in quella che per tutti è la piazzetta, si incontravano fino ad oggi le tante etichette giovanili che popolano la movida romana: radical chic, studenti fuori sede, giovani di sinistra ma anche teste rasate, gruppi di monticiani storici come Cristian o semplici artisti come Alberto. Fuori dalla scuola di musica St. Louis, tra i suoi amici c'è solo la rabbia. Se io so che Alberto si è cacciato nei guai per cavoli suoi, ci sto. se so che Alberto è stato menato come un cane senza motivo, non mi sta bene sta cosa. E questo è il quartiere nostro, la scuola nostra, perché stiamo sempre tutti qua. E allora dove sta Alberto potevamo starci noi. Italia in controluce. Un brutto, bruttissimo fatto di cronaca dunque quello di Roma, non resta che sperare che sia l'ultimo. Adesso invece una storia, andiamo nel napoletano a Bacoli. I protagonisti di questa vicenda sono una spiaggia, una barca sequestrata alla criminalità e un'associazione che dà sostegno a ragazzi disabili. Una storia finita bene forse anche proprio grazie all'intervento di questa trasmissione. La storia ce la racconta Romolo Napolitano. Una barca confiscata alla malavita pugliese diventa una zattera di salvezza per ragazzi disabili e dei quartieri difficili di Napoli. Il natante è stato attraccato fino allo scorso settembre sulla spiaggia di un'altra proprietà confiscata alla malavita, Villa Ferretti a Bacoli, in provincia di Napoli. Poi è successo qualcosa, ce lo spiega Fabio Grasso, presidente dell'ASGAM Mollus, associazione sostenitori giovani amici del mare. Il sindaco, di sua spontanea iniziativa, ha deciso e ha stabilito. Da settembre in poi ha affermato praticamente che la struttura è impraticabile perché ci sarebbero serie dei lavori di cantiere che attualmente sono stati definiti in una gara d'appalto che è stata chiusa. Questa gara d'appalto prevede i lavori su un terreno adiacente, però adiacente alla struttura già ultimata, già restaurata, e quindi dovranno ultimare questo terreno e fare delle opere, diciamo, attorno a questa struttura, e con la scusa, tra virgolette dico scusa perché che sono due lotti ben separati, anche con le nostre svariate lettere praticamente abbiamo capito che comunque non siamo ben accetti dall'amministrazione comunale, ci ha preso praticamente fatto in antipatia. Questo è il motivo vero e proprio del no dell'amministrazione comunale di Bacoli. Noi soltanto abbiamo richiesto un piccolo pezzettino di spiaggia, un po' di banchina e un gabinetto per i nostri ragazzi. Non abbiamo mai avuto la pretesa di chiedere la villa, di chiedere l'utilizzo di tutta la gestione della struttura, non abbiamo avuto mai la pretesa di null'altro che fare quel poco che ci compete per il senso che ha la nostra associazione di mare e quindi esercitare le attività marinaresche e ormeggiare una bella barca confiscata e ristrutturata con tanti sacrifici al di sotto di una villa confiscata anch'essa e che invece rimane abbandonata a se stessa. L'ASGAM è stata fondata da militari della Guardia di Finanza, questo però non ha esentato i suoi componenti da accuse pesanti quando nel Consiglio Comunale di Bacoli i toni si sono un po' esasperati. Mi è stato detto, riferito da alcuni consiglieri comunali, dalla gente presente sul posto, senza alcun senso si è alzato un consigliere di maggioranza e ha detto testualmente che l'ASGA Mollus sono tutti dei camorristi, che abbiamo pure, diciamo, a dir loro un fare da persone camorristiche, da persone comunque da criminali praticamente. Accuse pesanti e forse un po' fuori luogo, come ammette lo stesso sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano, ai nostri microfoni. Il consigliere comunale in questione è un consigliere comunale di una bontà, di una bontà unica. Lui ha soltanto, che purtroppo l'ASGAM certe volte si è comportata, ma probabilmente anche per un fatto caratteriale da parte del Presidente, in modo un po' arrogante. Quindi lui additava questa parola che è stata richiamata anche da me, che ha chiesto scusa pubblicamente nel civico consesso, nell'ambito del Consiglio Comunale, ma soltanto per un fatto di carattere, per un fatto di atteggiamento, ma nulla, mai niente di questo, perché comunque siamo ben consapevoli dell'attività dell'associazione, quella che fa e quant'altro. Archiviate con le scuse le parole forti usate da un consigliere, cerchiamo di capire cosa dice il sindaco di Bacoli su Villa Ferretti e la spiaggia adiacente. Oggi Villa Ferretti è oggetto di un nuovo finanziamento di ristrutturazione, quindi non è che non c'è stata la possibilità. Non c'è la possibilità materiale per un problema di pubbliche e private incolumità per il fatto che è un'area di cantiere. Il problema della spiaggia non è oggetto dei lavori, il problema è che per arrivare alla spiaggia bisogna passare attraverso questa zona interdetta. Era necessario, insomma, fare ulteriori lavori e non renderla subito fruibile? Sì, necessaria. Purtroppo abbiamo una parte della parte bassa che è totalmente interrotta all'interno, quindi tanto è vero che comunque entra dell'acqua dentro e quindi bisogna proprio mettere in sicurezza proprio quella zona per vedere una barriera e quant'altro. Sulla vicenda sono intervenuti anche la Regione Campania e gli altri enti preposti e la situazione sembra essere migliorata. Il sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano. È intervenuta venuta anche la regione con una lettera, mi sono visto anche col prefetto. Dopodiché, una volta che ho interloquito col prefetto, il prefetto ha capito bene quali sono le motivazioni mie, tanto vedendo che comunque ha capito bene che comunque il tutto è mirato al fatto per evitare problemi alla pubblica e privata incolumità. Poi, se c'è la possibilità, una volta identificata la vetta, di creare un percorso pedonale affinché si possa arrivare alla spiaggetta, ben venga anche da quest'anno, questo nell'arco di 7-8 giorni lo vedremo. C'è tutta la disponibilità a prevedere che comunque possono accedere a quella struttura tutti. Nel frattempo avete dato anche la disponibilità di un'altra spiaggetta, mi è sembrato di capire. Abbiamo dato la disponibilità, noi a Mifino abbiamo un arenile che è stato anche oggetto di un finanziamento di 120.000 euro da parte della regione, gestito dalla Pro Handicap, dove abbiamo tutti i ragazzi diversamente abili. È un fiore all'occhiello del comune. Noi abbiamo dato la disponibilità affinché questi ragazzi possano andare in quell'arenile e abbiamo dato anche una disponibilità affinché insomma si possa avere l'approdo all'interno del compendio della finanza all'interno di Mifino. Il problema è che purtroppo spesso comunque si creano anche dei malintesi, quindi c'è tutta la disponibilità per spiegare il tutto e c'è tutta la disponibilità da parte dell'amministrazione a rendere fruibile il bene. Prendiamo atto dell'impegno del sindaco di Bacoli per creare l'attracco che adesso manca alla spiaggia di Miseno e anche dell'impegno di riaprire al pubblico, appena possibile, Villa Ferretti e la spiaggia adiacente. Speriamo che il tutto sia stato soltanto un malinteso e che anche questa trasmissione abbia contribuito a risolverlo. E speriamo soprattutto che anche quest'estate i ragazzi disabili possano attraccare con la loro nave sulle spiagge di Bacoli e portare il loro messaggio di integrazione e legalità. Staremo a vedere come andrà a finire a Bacoli. Noi per adesso ci fermiamo qua per oggi e per questa settimana. Italia in Controluce è un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi, Alessio Maurizi in studio, Mauro De Angeli in regia. Vi salutano, ci ritroviamo lunedì.